Che buio è mai questo? E cos'è questa forza che mi spinge? Che mi costringe ad andare avanti? Che cos'è questo trucco che mi obbliga ad uscire? Cosa vedo laggiù o lontano? Chissà se mio padre e mia madre mi stanno aspettando. E che razza di combinazioni troverò? E se vale la pena tentare? Da quassù sembra tutto tranquillo. Te lo credo, finché continuo a volare. Sotto sembra che ci sia una grande campagna, ho dato che buio, potrebbe anche essere il mare. Meno male che ci sono delle luci laggiù, perché nel buio m'ero quasi perduto. E poi sono un po' stanco, comunque manca solo un minuto. Ecco che sono nato. Che scherzo però, mi fermo un momento, anzi riparto, oppure non so. Appena nato, già vivere mi piace come suona la mia voce. Ho freddo ma ho il fallo, scarpe da tennis, ciuffo rosso su palto. Arrivando qualcuno, devo nascondere reali che non userò. E tu chi sei e perché mi stai guardando? Nessuno mi ha mai guardato così. Lei ride, si alza, si sta avvicinando, poi si siede, in silenzio rimane lì. Forse l'amore comincia in silenzio, e aprire e chiudere le ali. Va bene, guardami, che ti insegno a volare. Prendi le...